Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Tutto un casino, no? Tutta una cosa, ci siamo messi qui, abbiamo preso, abbiamo acceso, abbiamo fatto, però siccome vi dobbiamo dare il tempo di arrivare e di capire che sono le 21, perché sennò vi perdete la cosa più bella di questa spedizione. Vero, poi dopo potete anche andarvene. Dopo anche noi ce ne possiamo andare, giustamente. Noi ce ne possiamo andare. E quindi, ragazzi, benvenuti a tutti. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, via qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me. Oggi me. Oggi me. Ma che ne so? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene in due puzzette. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma co... ma che... ma ah, no? Ma che? Calla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch... ma che è stata stronzata? Sochi chi? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi dotiet. Basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire, si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Questa bellissima e meravigliosa trasmissione che si rinnova ma ritorna uguale a prima, perché che cos'è che non cambia? Cambiano le persone. Walter Sbano, buonasera. Mazza quanto spingo, scusate ragazzi, ti ho detto è bello accelerato, questo, sì. Perché siamo in presenza, vabbè, però tutto poi... in presenza, poi dopo vi spieghiamo. Marco Gualdi, merda. La merda non cambia mai. Esatto. Sempre quello. Francesco Di Muro, la merda ha la capacità di rimanere uguale sempre a se stessa nonostante cambi consistenza, odore, materia. Sì, la merda è, ci pensate. Comunque c'è anche Buccio? No, vero? Immagino. Buccio? Arriverà, diamogli fiducia. Se ci sei, farma un colpo. Vabbè, Buccio c'ha anche altri problemi oggi, quindi insomma... va bene così. Allora diciamo. Ah, ci sono. Ah no, c'è Puccio. Grande, grande Puccio. Mi raccomando, Puccio. Tutto bene? No, sì. Sono tornato un'oretta fa più o meno. Sì, ma quanti siete, Puccio? Uno. Sì, ma dove andate? Perché ne sento almeno due o tre. Vabbè, dico, ragazzi, ciao, purtroppo, ciao. Dai, vi prometto che la prossima volta risolveremo. Cazzo, radio professionali, faccio tutto. E poi stiamo a che sti l'effetto papa. C'hai ragione, pensa che mi sono comprato anche il secondo cavo Ethernet. Ethernet, capito? Quindi il secondo cavo, così almeno uno. Quello è il punto. Se attacchi due cavi, si sente doppio. Ethernet, esatto. Il cavo Ethernet è quello che ha fatto vittime. Brutto, sto il cavo Ethernet. Bruttissimo. Comunque, diamo una piccola introduzione. Questa è OGM Soch Media Edition, che è la trasmissione di OGM, la versione di OGM con la sigla più lunga. Poi io già so dove tagliare, cioè nel senso, oggi l'abbiamo sentita tutta, poi piano piano la sfineremo. Ogni puntata togliamo un pezzettino, togliamo dei pezzettini, cominciamo dalle vocali. Esatto. Tutte, quindi, le vocali, insomma. E poi vediamo. Però diciamo anche che comunque dai, una bella sigla, fa ridere. A me fa ridere, ancora fa ridere. Io spero che l'abbiano sentita, perché sennò devono riprendersi il podcast. Esatto. Tipo Luca S e Michela, che salutiamo, che ci hanno già raggiunto. appunto. Grandi, e chi va ha fatto favolo soprattutto, esatto. La cosa più importante, insomma. E in che cosa differisce dall'OGM, insomma, che ci abbiamo messo un pochino, abbiamo riflettuto quando ricominciare, come ricominciare. Differisce dal fatto che la satira, la cattiveria, la maruvagità sarà sempre quella, ma cerchiamo di prendere spunti più che da quella che è l'informazione convenzionale, direttamente dai social media. Ci togliamo un pensiero, cioè, così. Nel senso, tanto noi i social media li frequentiamo costantemente, e quindi magari per settore, per tipo dei social media e via dicendo, cerchiamo di prendere il meglio. Andiamo direttamente all'apice della merda. Esatto, il meglio o il peggio, sì, anche, diciamo, sì. Insomma, che poi a volte è anche la stessa cosa, nel nostro contesto è la stessa cosa, insomma, no? Noi viviamo del peggio. Esatto. E la merda. Esatto. Però giustamente bisognerà poi fare dei jingle. No, perché per esempio quando parte Twitter, quando si parlerà di Twitter, ci sarà un jingle, quindi è tutto sì, in work. Il rumore di una Tesla che accelera. Esatto, oppure di gente che viene licenziata. Che, scusate, vi faccio sentire il rumore di una Tesla che accelera. No, però... questa è la Tesla con l'asma. No, perché mo' l'hanno sonorizzate. Si hanno messo dei rumori, sì, perché giustamente ti investivano e non te ne accorgevi. Lo sapevi. Adesso stato... invece ti investono sentendo il rumore di una scoreggia, perché fa tipo zanzarino. Scherzi, che c'aveva la... Lo puoi anche scegliere. C'era stato poi un bug che le faceva scorreggiare quando aprivi lo sportello. Davvero, perché tipo... c'era impostato che tipo dovevi fare sto scherzo, una cosa del genere, che scorreggiava quando si apri. E c'era stato un bug in aggiornamento che l'ha reso fisso ogni volta che aprivo lo sportello. Che burlone Elon, quando si divertiva con poco. Ma secondo me, guarda, lui è talmente odiato dai suoi... dai suoi dipendenti, ma penso di sì, che alla fine secondo me riempiono dei bug tutto. Il problema è che cada Tesla, di fa attenzione, è che metti il bug sbagliato, ammazzi la gente muore, insomma, sì. Beh, anche senza bug, tra l'altro. No, ma perché ci sono i bug, sì, in realtà, cioè, sì, perché senso, comunque, tra l'altro ho visto recentemente un video di un cinese che la Tesla gli è impazzita praticamente la Tesla va da 0 a 100 in 4 secondi, no? E praticamente questo si è portato via una ciclista, si è portato via, ha ammazzato 3-4 persone. Due morti e 4 feriti, esatto. Quando si vede la cosa inquietante di quel video, però è un'altra, te la dico dopo. Però praticamente si vede questa Tesla che sembra lì pronta per parcheggiare, a un certo punto da di matto e decolla. Sì. La cosa inquietante di quel video però è che sembrava di stare tipo al Nürburgring, c'era una telecamera a ogni cambio di inquadratura, la Cina. Una cosa, cioè, fa riflettere. La Cina. Però nella puntata di oggi di Data Nightmare, giustamente lui dice, parlando di WeChat, no? Il fatto che WeChat è ovviamente il software di comunicazione che usano in Cina, che è fortemente voluto dallo Stato cinese, con il quale tu fai praticamente tutto, no? Dalla chat a compri cose, oppure richiedi anche un mutuo, ad esempio. Sì, ti scaledano e ti caricano il debito, il credito sociale, esatto. Cioè, nel senso che comunque noi contestiamo tantissimo, ma poi in realtà è lo stesso modello che i padroni dei social media vorrebbero fare la stessa cosa, sì. Cioè, nel senso, poi alla fine se andiamo a vedere, i modelli sono quelli, solo che loro sono più sfacciati perché non devono giustificare niente a nessuno, fanno come gli pare, esatto. Ma d'altra parte io continuo a dire, non che sia giusto, ma sono 1,5 miliardi di persone, ma se non fai così, ma come fai? È tosta. È vero che secondo me quelli che stanno all'interno del, diciamo, della bolla tecnologica saranno un 20-30%, ma secondo me, vabbè, forse nella Cina rurale no, ma tutti gli altri quasi sono obbligati a esserlo. È obbligatorio. Sì, esatto. Tant'è che c'è un... I documenti li danno su un'applicazione, tipo, quindi penso sia diventato obbligatorio. Cioè non hanno la carta d'identità, hanno un'applicazione digitale al posto di qualche... Beh, comunque c'è questo tizio, Nicola Giang, che io seguo, insomma, lui è di Pesaro, infatti parla marchigiano, però si è fatto tutto il giro della Cina. Di Pesaro? Lui parla, era per essere qualunquista, insomma. Parla benissimo cinese, però quando parla in italiano parla in marchigiano, cioè nel senso, fa ride sta cosa. Perché... parla cinese con l'accento marchigiano. Può essere. Quando va in Cina viene schifato, perché c'è lingua perché è marchigiano? Marchigiano. E lui praticamente... ovviamente lui lo mostra come una cosa figa, perché da un certo punto di vista pratico è figo, dall'altra parte è inquietante, cioè nel senso che tutto ciò che loro facevano, quindi metropolitana, aeroporti e roba del genere, era tutto con riconoscimento facciale. Cioè tu per entrare al check-in tu ti mettevi davanti alla telecamera, quello ti riconosceva, ti stampava il biglietto e tu entravi. E ovviamente questa cosa a noi, cioè nel senso, oggi ci fa un po' rabbrividi, no? Ma poi tu pensa che tecnologia raffinata c'hanno, quelli sono tutti uguali eppure il sistema li riconosce. Tu scherzi, ma io l'ho pensato la stessa cosa. Ho pensato la stessa cosa, cioè come, che cazzo deve essere un software super avanzato, insomma, giusto Francesco? Tu sei d'accordo con questa cosa? Ma assolutamente no. Ti ho sentito che protestavi, insomma. Guarda che loro cambiano la pettinatura per farsi riconoscere. Ah, ok, ok. Ma è anche una vecchia osservazione che avete fatta quando Apple introdusse il Face Unlock, che se pensate ai cinesi che si potranno sbloccare i cellulari uno a vicenda. Esatto, per loro è tutto più facile. Però diciamo che no, vabbè, ma questo mi riporta poi ai personaggi di Final Fantasy. Vi ricordate il personaggio femminile di Final Fantasy, no? Per me è lo stesso personaggio che si reitera praticamente in 12-13 Final Fantasy, cioè quello originale. Sono sempre, ma sono sempre gli stessi, sono sempre uguali, sono tutti uguali, so, cioè. Però che trucco dei disegnatori di manga giapponesi, cioè le facce sono sempre uguali, cambiano i capelli e i colori. Secondo me è una questione di sindacalizzazione. Ragazzi, è per riciclare. No, è sindacalizzazione quello, cioè nel senso il sindacato li autorizza, dice, oh, devi fare, dato che ti fanno sta qui 12 ore, almeno ottimizzi col fatto che usi sempre. Io vorrei far notare che anche i Men e Tila sono uguali, se andiamo i Men e Tila sono uguali, ma sono gemelli. So cosa siano Men e Tila. I Men. Ah, i Men e Tila, sì, giusto. E tra l'altro bella la serie quella. Vabbè, io mi riferivo a quella originale dove si riciclavano fotogrammi per tutta la, certo, qui certo. C'era pure la Disney ha riciclato, no, i balletti. Guarda, la Disney, la Disney sì, tutta roba rotoscopizzata. La Disney sì, però secondo me quelli che hanno, però, eh, che hanno fatto la rivoluzione del cartone animato in televisione sono stati Hanna-Barbera, perché poi alla fine Hanna-Barbera ci hanno campato, cioè praticamente erano sempre sempre le stesse cose, pochi pezzi che si muovevano. E poi ragazzi, quando si sono inventati le labbra, vi ricordate? No, ma quella era, era qualche serie che c'aveva, ma era terribile. No, c'erano. Sì, qualche serie. Comunque si chiamavano là. Quella delle labbra, ragazzi, era terribile. Cioè, nel senso, non neanche era inquietante, la, non era neanche la faccia dietro chi muove. Cioè, ma in realtà in erano tipo anni 40, anni 30. Lì l'animazione non c'era, c'erano quello e basta. Il resto era tutto statico. Erano. Cioè, credo che fosse una tecnica e c'aveva proprio un nome suo, però adesso non me lo ricordo. Beh, tu devi considerare che l'ottimizzazione, tu devi portare 20 episodi in televisione, non è come fa un lungometraggio da Disney, capito? Cioè che c'hai i costi di produzione di un certo livello e c'hai 3 anni per portarli. A termine, esatto. Invece lì, capito, dovevano macinare e questo era quello che succedeva. Vabbè, comunque al di là di questa cosa dei cinesi, che non so come ci siamo arrivati, poi è bello che siamo partiti da non so cosa e siamo arrivati non so dove. Dalla Tesla siamo arrivati a WeChat, incredibile, veramente. I social, sì. Ricorda un po' Runtime by Night questa cosa. Tra l'altro, vi ricordo, dato che siete ancora svegli, tanto fra un po' smettete di ascoltare, che domani sera, dopodomani sera ancora, quindi martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 c'è le orazioni della sera con Walter Sbano. Salve. Come sta andando Walter? Bene, no? Bene. Vedo, c'è sempre discussione. C'è fomento. C'è discussione, c'è odio anche. Mi auguro che insomma arrivino tutti già incazzati la sera, se no devo fare tutto io. Esatto. E niente, tu Gualdi invece non c'hai un programma, quindi... No, assolutamente. Lui ne ha, però c'è da dire che Gualdi è coerente, neanche ascolta quelli degli altri. Niente. Siamo... Invece Francesco Di Muro si è dato alle dirette Instagram, dove parliamo dei... Beh, sì, figo. Dei social. Però proprio, lì si è vestito di professionalità. Però che cazzo ne come sì, noi. Professionalità. Oggi ho visto una storia di cui parlava con antropologo in girale, diceva abbiamo messi puntini di solito, però sto cazzo, cioè a un certo punto parolacce a caso, tipo vabbè, però come il suo degno e importante esimio collega, simia? No? La simia? No, la simia, no, l'illustre collega, il professor, com'è che si chiamava, che lo intervistavamo sempre, sempre nel GM, che comunque lui condivide la professione, il dottor, sì, quello che intervistavamo durante gli europei, non ve lo dico, ve lo devo ricordare, dovevo ricordare, no, il professor Pippo Campo. Pippo Campo. Sono ricordato, sono troppo bravo. E Pippo Campo, che insomma ci mancherà. Tra l'altro una cosa, perché è morto? Sì. Non lo sapevi? No. Sono morti lui e Manone. Mamma mia, che tristezza. Mi dispiace più per Manone, però. Cioè. Sì. Ma potreste spiegare ai non residenti a Monterotondo, Pix? Io non so manco chi era, devo dire. Perché Simone non si vuole integrare. Ormai sono 20 anni che è a Monterotondo. No, ma è vero che non lo sapevo, non so chi era. Vabbè, ma non era un personaggio della, diciamo, della borghesia. della Monterotondo dell'altra borghesia. Cioè. Della vita folcloristica, del folklore del quartiere. Era questo omone, non proprio, diciamo, con tutti i quarti d'ora in testa. Però un ragazzo tranquillissimo. Allora, siamo matematici. Se una persona tra virgolette normale, tra virgolette, è definibile 100-100, sì, lui stava su 50, ma vabbè, 60. Ma non legge, no, ma io direi anche un 85, dai, un personaggetto molto tranquillo. Era particolarmente noto perché andava sempre in giro con questa sua mountain bike. Ah, ma faceva avanti e indietro questa bicicletta. Tra l'altro, una volta gliene regalarono, si fece una colletta per regalargliene un'altra. Insomma, un personaggio assolutamente. Non neanche una macchietta, perché poi non era di quelli che dava spettacolo. Insomma, non era Bono, non era Sanremo. C'è da dire che ce ne abbiamo, veramente. Sì, abbiamo un campionario. Sì, però, ma non era di quelli perché che. Perché fu chiamato Manone? Questo non lo so. Nessuno può. Perché c'aveva le Manone. Forse che magari con una papagna. E quindi si è liberato il posto da Manone. Allora, c'è una persona che, di cui non posso, ovviamente, per questioni proprio di privacy, non posso definire, insomma, chi è, che sostiene che si chiama Manone perché praticamente. Cioè, era pedofilo, non so che sia un'associazione. Cioè era... Che cazzo di associazione è? Non lo so, però non posso dire chi è che ha fatto questo. Non lo so, no, quindi non ho idea. Ma il problema è che qui a Monterotondo sono tutti pedofili. Abbiamo scoperto che più vai a vedere, c'è proprio la pedofilia, altro che no, chiesa. Perché secondo me, guarda, io questo l'ho imparato un po' a Roma, un po' vivendo qui a Monterotondo, un po' conoscendo anche altre realtà, che il matto alla fine comunque viene sempre accusato di tante nefandezze. Adesso, beh, come Quasimodo, no? Il gobbo, vabbè, quello era un pedofilo. Esatto. Ovviamente era pedofilo. Scusa, cioè era gobbo apposta. Per quello che era gobbo, vabbè, ma che cose tristi che stanno. Vabbè, però diciamo che ci siamo tolti il coccodrillo. Torniamo a noi. Sì, è morta pure la nonnina di Casa Surace. Sì, è vero. Che io conoscevo solo dalle pubblicità della Varecchina, perché sinceramente Casa Surace non l'ho mai seguita. No, però vabbè, era simpatica, sì, alla fine. Sì. Niente trascendentale. Non c'era un giudizio, era per dire che proprio non. Sì, solo che dopo 10 anni fai fare sempre i soliti battuti, solite stronzate. Casa Surace sono belli i primi 2, 3, 4. Forse è morta per quello. Come hai visto tu? Magari è morto per quello, no? Faceva sempre il stesso. Cioè, tanto alla fine faccio sempre stesse cose, allora, mi conviene morire. Tipo di essere costretti cambiare. Esatto. No, io sono convinto che. No, ma è una roba tipo Jimi Hendrix, tipo morite giovani, così lasciate un ricordo. Club dei 127 ha fatto la nonnina invece che dei 27. Esatto. Dicendo che magari, poverina. Che poi la prossima è Nonna Loca. No, come si chiama quella lì? Come si chiama Nonna Loca? Vabbè. Comunque, la regia si chiama. Vabbè, comunque, io direi che possiamo iniziare con Twitter. Che dite? Twitter? Iniziamo con allora, Twitter. Jingle di Twitter. Chip. Mi raccomando, chip è importante. Chip. Da non confondere che chip, non chip, perché no chip. Esatto, chip, non attenzione. Esatto. Vabbè, che ne so, ragazzi, iniziamo dalla fine. Intanto parliamo di un attimo di Twitter. Allora, esatto, abbiamo rischiato di non avere la rubrica di Twitter. Io ho rischiato di uscire da OGM, perché tanto a quel punto che dovevi fare? No, invece adesso che devi rimanere. Io non dormirei tranquillo per le prossime settimane. Ma guarda, allora, che è successo? Vabbè, lo sapete tutti che Elon Musk qualche mese fa, in preda all'alcol, fece sta sparata sboronica: mi compro Twitter per 44 miliardi di dollari. Poi si rese conto di aver detto una cazzata clamorosa e cercò di uscirne in tutti i modi, solo che aveva firmato un contratto vincolante con una clausola di buonuscita, con una penale, una clausola di morte, mi pare, di 10 miliardi. Allora lui a un certo punto, occhio e croce, forse gli sarebbe convenuto, però lui, secondo me, ha detto: piuttosto che buttarne 10 così, vaffanculo, me lo compro. È soltanto che dal momento in cui ha messo piede negli uffici di Twitter a San Francisco ha fatto il panico più totale, ha preso una decisione dopo l'altra nell'arco di quarti d'ora che si contraddicevano l'una con quella precedente e con la successiva. Troppo bipolare, no? È Asperger, non è bipolare, è Asperger. No, è autistico, è autistico. È Asperger, è Asperger. Secondo me è stronzo. Anche Vanesio stronzo. Io l'ho sempre detto, questa cosa da Asperger poi dopo diventa una giustificazione. Sicuramente non è Tony Stark, come cerco sempre di sottolineare su Twitter a tutti quelli che dicono ma perché lui è un genio miliardario, voi non capite un cazzo, come vi permettete di giudicarlo? Vabbè, fatto sta insomma che tra licenziare 2/3 del personale, far disattivare i servizi di autenticazione esterna, tutti i microservizi di terze parti che pagavano per fargli fare delle cose, dice questo non serve, ha reso Twitter semi paralizzato per certi versi e per certi momenti. Poi ovviamente un po' di utenti hanno cominciato a migrare altrove perché si sono sentiti preoccupati, infastiditi, incazzati. Il fatto sta che tra le varie cose che ha fatto c'è stata riabilitare con un sondaggio, e arriviamo alla ciccia, perché ha detto Vox Populi, Vox Dei, ha lanciato questo sondaggio per credere agli utenti se volessero il reintegro, la riabilitazione dell'account di Donald Trump o meno. Il sondaggio ha dato esito positivo, ma per un'antichia un capello. Il sì, rivogliamo Trump, ha vinto. Al che ovviamente poi lì tutti hanno fatto: scusa, ma non era il problema di Twitter per cui tu hai cercato anche di non comprarlo più? Non era che ci sono troppi bot? Quindi non è che magari il risultato di questo sondaggio non è proprio attendibile? Vabbè, lui ovviamente ha fatto orecchie da mercante, ha fatto riabilitare Trump. Lui li ha disabilitati. Ma guarda che lo scopo di comprare Twitter era solo quello. Ma guarda, non lo so, perché adesso sono successe un paio di cose. La prima è che al momento Trump ha completamente snobbato il ritorno su Twitter, perché nel frattempo si è fatto dare dei soldi per fare un social suo. Giusto. E quindi che fa? Non può. Poi magari se arriva al 2024 candidato a presidente, vedrete che tornerà su, e se Twitter sarà ancora attivo di sicuro tornerà, ma per adesso fa lo gnorri. La cosa divertente, e vi metto l'immagine sulla nostra chat diretta Ramtime Radio, se tutto va bene, sto cercando di copiare l'asset, vediamo, e di metterlo sulla chat, qui stiamo improvvisando le nuove tecnologie. No, non me lo fa fare, allora vi posto il link, va bene lo stesso. E praticamente il giorno stesso in cui Elon Musk ha riabilitato Donald Trump, lui stesso dal suo profilo Twitter, adesso vi condivido il tweet, lancia questa cosa. Un'immagine in cui Twitter è praticamente è una tavola di Milo Manara, per capirci, con la classica beltà disegnata da Milo Manara in una posizione inequivocabilmente a pecora. Guarda, scusami, che era Milo Manara, ci ho fatto caso adesso, ingrandendo la perché la, non la parli ragazza sul microfono, Gualdi, scusami. Perché Gualdi? Ingrandendo la ragazza, ho visto che è Milo Manara. Ok. Purtroppo mi ero soffermato sul frate. C'è qualcosa che non va nel microfono di Marco. È il frate che dice con la. E Elon Musk, in riferimento, fa l'associazione, mette le iconcine per censurare e fa, praticamente rappresenta Twitter come la bella ragazza a pecora. E poi sulle chiappe Twitter. Certo, cioè. Vabbè, a coprire le reprimenda. Le pudenda. E Donald Trump, rappresentato come il sacerdote, anzi il frate che cerca di resistere al peccato, alla tentazione. Il peccato, dice, e non ci indurre in tentazione. Ma secondo me sta pensando avanti o dietro? Forse perché noi pensiamo, certo, che voglia resistere, ma perché magari... ragazzi, scusa, cioè, capisci il dramma? Due buchi per un pisello solo, guarda che non è una cosa insomma. Vabbè, e quindi insomma fa un po' ridere il fatto che Elon Musk dopo neanche 24 ore dalla riabilitazione di Trump, che sì, esatto, tra l'altro, abbia voluto la risposta di Manara intanto sempre. Ah, ok, perché Manara giustamente si è risentito e ha postato su Instagram, vediamo cosa dice. Dice Elon Musk dovrebbe essere obbligato a scrivere a twittare per 100 volte non userò mai i disegni di Mino Manara senza il suo permesso, non userò più i disegni di Mino Manara senza il suo permesso, eccetera eccetera. Ma la cosa divertente è che siccome in Italia nel frattempo sapete che Salvini, quando Musk ha detto che voleva riabilitare Trump, subito è intervenuto: ah, tu sei un grande, vieni a fare business in Italia, massima stima, no? E Musk gli ha pure risposto: sì, ti verrò a trovare. E sapete che poi Salvini, se parla ad uno, se gli fa un augurio, un complimento, è una seccia, no? per quello che ti sto dicendo che tu dalla prossima esatto, settimana esatto, probabilmente quindi Twitter morirà. Tenete strette le Tesla perché poi dopo esatto, ma la cosa divertente è che Sirio Merenda, che è un account abbastanza noto in Italia su Twitter che fa un po' di satira, ha subito risposto con questo altro tweet che vi sto mettendo in chat in relazione a quello di Musk di cui abbiamo parlato poco fa. E quindi c'è praticamente la reinterpretazione del, del disegno di qui sopra, ma nella parte di, diciamo, della ragazza c'è il bonus matrimoni e nella parte del frate di non indurci in tentazione c'è Matteo Salvini. Perché? Perché Salvini e la Lega in questi giorni non stanno facendo altro che raschiare il fondo del barile nel tentativo di trovare un argomento. Però funziona, hanno perso altri 0,4-0,5 punti. Cosa hanno proposto quindi? Cosa hanno proposto? Hanno proposto di lo ius prive noctis, praticamente una cosa del genere. Perché forse sarebbe stato più. Sarebbe stato meglio. Sarebbe stato più logico, perlomeno. No, hanno deciso di dare un bonus ai matrimoni di 20.000 euro, ma solo con la condizione se ti sposi in chiesa, cioè se tu sei ateo, musulmano, di un'altra religione, te la prendi in culo. Cittadinanza italiana da meno 10 anni, certo, da meno 10 anni, perché giustamente se no i soldi vanno all'estero, ci portano via i soldi. Però sta la tolta, un filino anticostituzionale sta sì, cosa. Sì, l'hanno cassata questa cosa, perché si sono accorti che forse è una merda, è una merdata, è un merdone questo, sì, è un merdone. Quindi lo hanno prontamente ritirato, lo hanno ritirato, diciamo che lo hanno ritirato. Quindi potete tranquillamente sposarvi, certo, con qualsiasi religione o non, senza problemi. Anzi, adesso ho deciso che mi sposo, quest'anno mi sposo, cioè, anche tu. Marco, sposiamoci tra di noi. No, perdiamo, che sei matto, 40.000, 20.000. Ho capito, però se prendi un'altra persona comunque la metà gliela devi dare. Ah, questo è vero. Quindi che cazzo hai risolto? Oppure potremmo farlo fuori. Allora, se noi organizziamo i pozzetti, allora, li mettiamo lì dentro. Serve una convenzione con uno studio legale per gestire poi ovviamente i divorzi, no? Però uno potrebbe fare a catena di montaggio, no? Un paio di matrimonio ogni 4-6 mesi al massimo e campi di rendita. Perché non c'è un limite? Non lo so, bisognerebbe vedere. No, c'è i tempi per la, come si dice, per la separazione, il divorzio. Vabbè, un anno, anche 6 mesi volendo. Anche 3 mi pare siano diventati. No, no, 3 mesi? O anni. No, guarda, se ci sono figli c'è il pieno consenso, in 6 mesi te la cavi. Ma secondo me il problema poi nasce che siccome la Sacra Rota non riconosce il divorzio civile, sei divorziato in seconda nozza in chiesa non ti puoi sposare. L'hanno tolta questa cosa della chiesa, quindi sti cazzi. Quindi basta che te sposi, ti danno 20.000 euro. Vabbè, raga, facciamo tutte le permute, dai. Infatti, avessi saputo prima. Vabbè, divorzio e risposo, ok. Fate una cosa consensuale. Perché vale sta cosa. Capito, sai come ci informiamo, dai, fatta la legge scovato l'arcano, basta che non sia specificato bene, è come il 110% te infili e via. Vabbè, poi se volete andiamo avanti. No, perché io sempre da Twitter, ovviamente sul profilo di Fanpage, che voi sapete Fanpage insomma a volte fa dei reportage interessanti, sì, ma per il resto è la maggior parte è veramente, però ci fanno notare una cosa che tra l'altro mi è stata fatta notare da un utente di Runtime, che praticamente c'è stato un evento curioso nella grafica televisiva della partita Stati Uniti-Galles dei mondiali. La grafica, come voi sapete, è una grafica ufficiale protocollata dalla FIFA, sì. Okay? Che viene emanata egualmente su tutte quante le televisioni del mondo. Allora, noi quello che abbiamo sempre pensato è che la regia centrale che trasmette i mondiali, quindi la regia che è in Qatar, trasmette anche ovviamente la grafica in sovraimpressione, che di solito è internazionale. Scusa, ma non è in lingua la grafica per il paese di trasmissione? E questa è la cosa curiosa, perché che cosa è successo? È successo che fino a un po' di tempo fa la grafica era internazionale, cioè era comunque in inglese. Adesso pare che sia successo un evento un po' strano, cioè praticamente durante la partita Stati Uniti-Galles, sulla grafica è apparso Gall. Ora uno potrebbe dire Stati Uniti d'America, sua che è? Sua è Stati Uniti d'America, no. Galles, quindi Gall, invece avrebbe dovuto essere USA, Wales. Wales, no? Wales. Ok, quindi doveva essere WL. Questa cosa però ci ha molto incuriosito, e in effetti ha incuriosito in tantissimi. Sono state un bel fermento all'interno di Twitter. Perché? Perché giustamente dice: ma perché questa grafica è in italiano? E soprattutto in italiano noi abbiamo sempre comunque scritto USA, non abbiamo mai scritto sua. Esatto. E soprattutto noi neanche ci partecipiamo con gli svizzeri, però vero. Però se ci pensi, in realtà, anche se è stato considerato un errore, infatti poi la grafica è stata corretta in USA e WA, esatto, quindi cioè, è stata inglesizzata. Se ci pensi, in realtà poi alla fine è più corretto sua che USA, cioè in italiano. Magari cioè, stavano collaudando, non volendo, un sistema intemporale di traduzione in tutte le lingue, perché in realtà è strana sta cosa, però fino a tempo fa, quando la tecnologia non era particolarmente evoluta, i cartelli erano ipersemplificati all'osso. All'inizio c'erano soltanto le bandierine dei due all'inizio squadre, c'erano solo le scritte esatto, e i numeri, quindi il numero di gol, il cronometro, eccetera. Quindi vabbè, interessante. Strana sta cosa, perché veramente è la prima volta che, e ovviamente dov'è che è successa sta cosa? In Italia. E quindi mortacci. Vabbè, poi a noi che non ce ne frega manco un cazzo, poi fondamentalmente. Mortacci sua. Anche se sua, esatto. Anche se comunque dalla prossima puntata noi ci faremo un collegamento con Asgan Pazuzu, che è un insomma che è un membro del Ghana, cioè del, insomma, dello staff. Pensavo fosse un membro degli anticristi. No, in realtà ho sbagliato, si chiama Muzumba, lui si chiama Muzumba. Forse c'ha qualche cosa a che fare con. Molto comune, esatto, evidentemente sì, che è un membro dello staff tecnico del Ghana, che insomma ci racconterà insomma la sua esperienza. È interessante, quindi Marco preparati che dovrai fare la telefonata insomma la prossima settimana. Ecco, volevo dire questa cosa su Twitter. Se avete altre cose da Twitter, ma le vogliamo sparare tutte o torniamo dopo? Perché io nelle settimane scorse, nell'attesa di partire, avevo raccolto. Però ormai sono un po' stagionate. Però qualcosa la. Allora facciamo così: la posta del Quora. Allora parliamo un attimo di Quora, questo fantastico rifugio dove la gente che è scappata da Facebook fa delle domande insensate con delle risposte ancora peggiori, cioè. Allora, Quora può essere spiegata in un motivo: io non voglio fare le ricerche su Google, funziona così, cioè tu invece che c'hai un dubbio, solitamente che fai? Lo scrivi su Google, che tipo... poi se tu ci pensi, scusa ti interrompo un attimo, no? Tu vai su Quora e scrivi la domanda, quando con la metà delle parole fai la ricerca su Google. Assolutamente, ma difatti l'esistenza di Quora è un grandissimo mistero, è una roba tipo le piramidi. Secondo me, ragazzi, Quora dovrebbe essere prevalentemente in italiano e invece è in inglese, perché riflette la mentalità pigra dell'italiano medio, che è: perché devo cercare se posso chiedere? Ma è, cioè io, ma chiedere nel senso non voglio perdere del tempo a fare una ricerca, a selezionare i risultati, domando e cerco la risposta giusta subito. Il primo che mi risponde c'era esatto, capito? Per fare questa domanda. Però scusa, tu comunque fai la domanda e già hai sprecato del tempo, più devi leggere pure le risposte, cioè in ogni caso devi leggere le risposte, ma la domanda è: potessero, farebbero i messaggi vocali, quindi potremmo fare la domanda a Quora su perché esiste Quora senza fare la ricerca su Google. Ok, vabbè, comunque Buccio, prego, scusa. Allora, Quora. Quindi Quora è un posto dove la gente va a fare domande. Va a fare le domande e alle risposte. Allora, fino a un anno fa circa, Quora ti obbligava a utilizzare il tuo nome e cognome, quindi non potevi usare nomi di fantasia, eccetera, eccetera. Poi cosa è successo? È morto Yahoo Answer, perché Yahoo ha ritenuto che non servisse più una minchia. E avevano pienamente ragione. La dirigenza di Quora, per attirare utenti, ha sdoganato i nickname nella speranza che i profughi di Yahoo Answer, che era un posto dove la gente andava a dire è vero che la Coca-Cola è un anticoncezionale, roba del genere, venisse attirata su Quora. Questa cosa ha funzionato, ma ha causato una serie di problemi. Ha leggerissimamente abbassato la qualità media, suppongo. Ma perché dire abbassato? Proprio abbattuto. Avete presente quegli affari che servono nei ristoranti per il pesce, che portano la temperatura a meno 400 gradi? Uguale. Quelli che non hanno a gubbio. Esatto, quelli che a gubbio non usano, avrei detto anch'io. Ok, allora che è successo? Hanno cominciato a manifestarsi dei fenomeni abbastanza curiosi. A parte l'attrazione dei deficienti verso Quora, che è stata abbastanza evidente, il fatto di non avere più l'obbligo dell'utilizzo del nome ha anche attirato, diciamo, degli strani influencer. gente che ha delle opinioni abbastanza curiose. Una persona di queste, non facciamo il nome, è una ragazza che dice di essere tedesca, scrive prevalentemente su Cuore Italia e che dà delle risposte, diciamo, estremamente curiose. Un paio di giorni fa un ragazzo ha chiesto quale fosse in questo momento la politica energetica della Germania, con i problemi di approvvigionamento del gas, con il fatto che i Nord Stream sono inutilizzati. Era una domanda tutto sommato abbastanza semplice, perché la Germania ha varie fonti di approvvigionamento per il gas, ancora le centrali nucleari, insomma sono tutte informazioni abbastanza comuni e che qualcuno gli ha spiegato. È intervenuta questa signora di origine tedesca e ha scritto un papiro che vi assicuro su decine e decine di righe per spiegare come quest'anno in Germania moriranno di freddo, le aziende chiuderanno e tante altre rubine carine, perché pare che secondo lei la Germania non ha un programma energetico, non ha più una fornitura di gas e non ha più le centrali nucleari. Tutta una serie di robe assolutamente inventate di sana pianta. Qualcuno si è preso il disturbo di andare a controllare le fonti di questa notizia. Diciamo che prevalentemente erano articoli tradotti dal cirillico, per capirci. Ah, non era BioBluen? No, era BioBluschi, diciamo, la fonte è quella era lì. BioBluschi, ok. Da lì sono cominciate una serie di domande su come i tedeschi vivono questo inverno, e ci sono stati vari italo-tedeschi che hanno risposto bene, grazie, con qualche preoccupazione, ma tutto sommato senza problemi. Ma con questa signora che interveniva fissa per dire che lei vive in Baviera, muore di freddo, che razionano la corrente, che le aziende uso, che i negozi chiudono alle 18 quando c'è il tramonto, insomma tutte queste cose carine. Ovviamente, diciamo, la matrice è abbastanza chiara, però a quanto pare non è neanche la sola, perché poi hanno cominciato ad aggiungersi risposte di utenti iscritti due giorni prima che, insomma, con l'italiano traballante cercavano di ripetere gli stessi concetti. Quindi in questo momento Quora non solo ha una funzione molto particolare, cioè quella di sostituire Google con gli esseri umani, ma è anche, diciamo così, affetta da qualche problema di russofonia. Sì, di russofonia. Russofilia, probabilmente adesso li vado, no? Anche russofilia, sì. Russofilia. Bene. Possiamo... No, scusate, stavo a legge Quora. Okay. Questa era l'introduzione. Stavo a legge Quora e quindi rimango sempre basito. Ma ragazzi, ci porti qualche testimonianza poi in particolare? Hai raccolto qualcosa? O oggi sì, solo volevo dire, a parte questa cosa che era abbastanza generica, su Quora c'è un fottio di domande che hanno a che vedere, tra le tante cose, con l'informatica. Su questo io preferirei, diciamo così, sorvolare quanto più possibile. Sento gente che ride, penso di aver capito anche perché. Sì, ma perché c'è no, vabbè, tu perché giustamente nella tua cerchia vedi soprattutto roba informatica, io vedo pure roba psicologica, quindi. Ma ci sono le domande tipo la posta di Cioè, che è la più, sono sì, le più belle. Allora, quelle sono più belle. Per l'appunto, sì, citando due chicche fresche. Allora, una domanda a cui si stanno sommando diverse risposte, tutte molto contraddittorie, recita brevemente: posso scrivere youtuber come esperienza lavorativa sul curriculum? Se guadagni, sì. Sì. Cioè, se ci prendi i soldi, sì, se no, sì, no. Difatti, le varie risposte erano: ah, dipende. Però c'è. E a un certo punto qualcuno ha fatto l'unica controdomanda decente: quanti iscritti hai? La risposta è 15. Quindi. Ok, youtuber non è passare il tempo a guardare i video, ma essere content creator, però vabbè, uguale. Apprezziamo l'impegno, ecco. Sì, altre domande che però in questo momento riguardano più che altro la vita delle persone nei territori fuori Europa, diciamo verso l'est, cominciano a diventare sempre più frequenti. Tipo, una domanda bellissima che sta dicendo anche parecchio hit è: gli abitanti della Siberia vivono come nel 1500? Seguono una frittole, più o meno in questa maniera. Senti, ma noi vogliamo quelle belle domande tipo, che ne so, posso rimanere incinta con una zucchina? Queste cose qui, oh, ci devi cercare. Per quelle ci volevo arrivare più avanti. Per quelle. Vabbè, quelle, no, se ci sono, te tienile in caldo, allora va bene. Sì, vabbè. No, di quelle a tema medico, se vuoi ce ne ho diverse. Ve ne cito solo una che vi avevo ripetuto l'altro giorno in chat, ma che continuo a ricevere molte risate. Ma è vero che i vaccini sono sostanze artificiali create in laboratorio? Beh, questo non so rispondere. Io sì, io so rispondere, perché in realtà esistono due tipi di vaccini. più di due, che, però. No, quello che ha detto la persona a cui nello specifico è quelli naturali, cioè il vaccino naturale che esiste in natura, tu lo raccogli e. Te lo inietti. Perché si coltivano quelli. No, non si coltivano, quelli sono spontanei, cioè c'è il vaccino. Ma cioè, crescono, se esiste un virus o un bacterio. Crescono sugli alberi, sulle piante, a terra. Non è chiaro. La sfumatura che sì, sono fatti in laboratorio. Sono artificiali? Dipende, perché i vaccini. Beh, se sono fatti in laboratorio, sono artificiali. No, in laboratorio prelevano diciamo delle sostanze. I principi attivi. I virus resi innocui e inoculati nell'ospite, che poi insegna al proprio sistema immunitario a reagire, sono virus reali, sono stati resi. Non pericolosi tramite inattivi, grazie, non mi veniva la parola. Dipende, è una delle tecnologie inutili, quelle più tradizionali. Vengono coltivati campi di antivirus. Beh, in realtà nei vetrini di Petri, eccetera, quelle sono colture, per cui il termine è anche vero. Però insomma, non sono artificiali, quello voglio dire. Sì, comunque, siccome li devi depotenziare, quindi devono diventare. Sì, sono ingegnerizzati, certo. Certo. Vabbè, comunque, insomma. Diciamo che il problema fondamentale è questa idea che esistano i vaccini coltivabili. No, secondo me sì. Sì, va. Io sono assolutamente convinto. L'albero è al tantissimo. Esatto. Che poi dopo è un po' come quando l'umanità, tipo in Mesopotamia, no, è riuscita a usare gli elementi della natura a suo vantaggio, quindi creando l'agricoltura, non è la stessa cosa, tu creando anche l'alcol, che è una cosa che tu crei l'agricoltura dei vaccini, che sono quelli naturali, perché se no, che ci hanno, tra l'altro, sono un po' rari, perché quello è un po' il problema di fondo, perché se no in realtà alla fine farli in laboratorio forse è più economico, no? certo, però insomma, come i colori naturali, i colori fatti chi sì, no, l'unica no. Differenza è che è un po' il vaccino, secondo me, quello naturale è un po' come i funghi, cioè devi essere veramente esperto, perché sennò ti fanno male, perché sennò sono cazzi, secondo me. A proposito di fungo, la penicillina viene da un fungo, esatto. Da una spora, da un... pure la pellicina, quella dell'unghia, no, che te fa male, è uscita male, Simone, è uscita male, va bene, anche dalla pennichellina viene, ecco, la pennichellina mi piace tantissimo. Questa sì, assolutamente, la pennichellina è, poi fa parte, insomma, della mia natura, Vabbè, poi altre Francesco cose. Dai, sentiamo Francesco da qualche altro social. Che social c'hai tu, Francesco, che ti sei preso? Io mi sono preso Telegram, perché voi non potete immaginare Telegram e WhatsApp, giusto? No, ma WhatsApp chi sono cura? No, più Telegram, perché comunque Telegram. WhatsApp non è che ti puoi cercare i gruppi, queste cose, a meno che non ti link. Su Telegram, se ti metti a cercare due stronzate, ti trovi della roba, ma della roba. Io mi sono focalizzato soprattutto su un gruppo, visto che si parlava comunque di Trump, eccetera. Un gruppo che si chiama, cioè una pagina, che è quella, che è un canale che si chiama Il Risveglio Q1776, che è già un programma. Allora, ma tu come ci capiti dentro sta roba, scusa? Me li passano. Te li passano. magari. E comunque, da come si evince, è profondamente un canale in italiano che passa roba di QAnon, quindi il Deep State, queste cose qua, Trump vero presidente, queste cose qua, eccetera, ogni tanto con preghierina, cose stupende. Ma stavo vedendo soprattutto uno degli ultimi post praticamente che mi hanno passato, giusto per farne una, praticamente una foto, di Draghi, giovane e vecchio, contrapposta a una foto di Calergi, giovane e vecchio. Voi sapete chi è Calergi? Sì, chi era Calergi? Sì, una persona di cui nessuno ha letto un cazzo, ma di cui tutti parlano. Sì, praticamente un politico austro-giapponese, più o meno, che è stato un pochino tra i padri, diciamo, ideologhi un pochino dell'Unione Europea, andando molto alla larga, però è soprattutto al centro di tante teorie del complotto, soprattutto diciamo che la sostituzione etnica, no? Ah? La sostituzione etnica. Sì, praticamente sì. E praticamente li contrappone, questi due, fa vedere che si somigliano. Oddio. E dice: inquietante. C'è poi chi pensa che non esistano i dragoniani. Va bene. Quello no, a D&D sono una classe, li puoi usare, spesso ci puoi fare paladino. Quelli sono i dragonici, draconici. Ah, vero, scusate. I dragoni. Draconian. Poi c'è tutto un papiello qua, però devo leggere. Sì, ma non gli somiglia, cioè... lascia stare questo. Sempre a proposito di somiglianze e non somiglianze, c'è questo in cui... assomiglia più a John Hannah, l'attore, se vogliamo, però vabbè. Infatti, in cui contrappone varie immagini di Hillary Clinton, Biden, Bill Gates, i soliti comunque, foto in cui erano un po' più giovani, un po' più vecchi, ma dicono: questi sono i doppi, questi sono i sostituti, ecco. E c'è tutto un papillone lunghissimo che cerco di leggere così spannometricamente. Per i nuovi arrivati, i tribunali militari operano negli Stati Uniti dall'inizio del 2019, approvati da un ordine eseguito del presidente Trump, ma non riesco a leggere stasera. Questioni come tradimento e crimini contro l'umanità rientrano nell'ambito delle forze armate e consentono un processo rapido e chiuso che di solito si traduce in esecuzione a lunghi soggiorni a Gitmo, non so che cazzo è, o arresti domiciliari. Vedi Guantanamo. Ah, Guantanamo. Guantanamo. Ah, vedi tutti i VIPs, attori, lo stivale ortopedico che nasconde la cavigliera elettronico. Che cazzo è con lo stivale ortopedico che nasconde la cavigliera elettronico? Cavigliera, giusto, mi sono pure tradotti male. È stato riferito che molti personaggi pubblici vengono ora sostituiti da cloni doppi, immagini olografiche, attori mascherati, i principali cloni reali. Si tratta di persone cresciute in provette, note come in vitro, insieme ai vaccini, orientati nell'utero, che hanno la stessa composizione genetica di un altro essere umano. Persone sintetiche, queste persone assomigliano esattamente a persone reali, sebbene siano fatti determinati tessuti, ad esempio sono ottenuti dal bestiame, tipo dal porco, dal porco non si butta via niente, secondo me. Un robot organico che è un ossimoro, però vabbè, lasciamo stare il dettaglio. Questa è la vita artificiale creata in un mondo completamente diverso rispetto ai cloni e agli esseri umani sintetici. La tecnologia robotica organica viene utilizzata per creare le copie più accurate di persone molto importanti. Gemelli. Ecco, all'improvviso è diventato l'orosco. C'è un programma che trova gemelli di celebrità, così come un programma che crea segretamente gemelli identici che vengono separati alla nascita e mai più visti. Attori mascherati, immagini olografiche. Ora che sappiamo che la clonazione umana è molto reale, un piccolo input ve l'hanno dato con la pecora Dolly, possiamo osservare alcuni dei cloni duplicati più evidenti di personaggi pubblici famosi. Queste persone sono semplicemente dei segnaposti fino a quando la società non si sarà svegliata abbastanza ad esporre completamente i suoi primi controlli. Poi si finire. Dovremmo tenere presente che qualsiasi persona conosciuta potrebbe essere un clone, un doppio, un attore, una persona mascherata, un'immagine olografica o CGI. Lascio qui un link in modo che tutti possano dare un'occhiata alle figure più famose create per l'esigente di questa battaglia cruciale all'esistenza di un mamma. VXKRAL. Vabbè, qua dice: voi tu dici che sono cloni umani che possono sostituirli. In neurologia viene chiamata sindrome di Capgras, che praticamente tu ti credi che un tizio è un tuo amico, è un sozio. Scusami, la sindrome di Capgras? Stavo a dire la stessa cosa. Capo tu cazzo. Vabbè. È interessante però tutto questo, tu lo sapete che... Ma ci sono quelli della Federazione di Luce? No, quelli là una volta c'era il gruppo tipo. Aspetta, lo cerco una cosa del genere. Solo a un certo punto tipo. Vabbè, tranquilli, abbiamo una stagione intera per parlare di tante cose che dovremo andare comunque, a ripescare. Comunque, non so se ci sono ancora, cioè costa un botto la luce questa. È vero. Secondo me. No, ma c'era un gruppo, mi sono dimenticato, in cui c'era finito pure qualcuno. Ogni tanto ho visto inoltrare delle cose da quel gruppo. Che pure cucinieri, cioè, sì, mi sembra cucinieri ogni tanto. Solo quello periodicamente praticamente eliminano gente, scremano gente, perché a un certo punto dice: ecco, la nave ci stanno venendo a prendere, solo gli eletti potranno essere. Se sarà eliminato vuol dire che non sei eletto. E poi ti eliminano, così fanno finta che noi siamo. Ah, partiti. Io pensavo che quelli spariti erano quelli che erano stati fatti salire sulla nave. Invece è il contrario. No, perché a un certo punto solo gli eletti, se sarei eliminato vuol dire non sei eletto, non potrei partire come noi. E uno poi ci rimane fesso, perché periodicamente poi se vai con un altro account ti inserisci dentro, quindi non sono partiti davvero, però te fanno credere quello. Però io voglio capire, ma sta gente, cioè quanto ci credi, quanto è un hobby barra una montatura che ci stai spendendo tanto tempo? Questo voglio capire. Poi lasciamo stare tutti i gruppi di criptovalute, di robo che mi ci vedo buttato dentro, e poi tutti quanti ah grazie, oggi ho investito, cosa ho guardato, guadagnato tanto, grazie. Non sono dei bot, no, tipo Open for Business, poi ogni tanto pure delle preghiere, delle robe, ma c'era una cosa talmente bella io se vengo messo dentro ogni tanto mi capita me di essere entrato nei gruppi, no? E prendi e esci, cioè nel senso sti cazzi non te frega. No, non esco perché no, poi non vabbè, no, nel senso alcuni non mi interessano proprio, non mi fanno neanche sì, ma alcuni non ne mi interessano la faccia di Francesco e capisci che lui è proprio istituzionale. Io lo so, ma io anch'io so come lui. Soltanto che vabbè, se una cosa proprio non mi interessa, non trovo neanche lo stimolo e me ne vado, no? Però se dovessi essere messo dentro un gruppo di preghiere, io penso che prima di uscire farei una cosa, insomma. Ovvio. Porteresti la donna? Esatto. No, ma non era un gruppo di preghiere, che sto cose di criptovalute, Madonne, queste cose qua. Ma sai che avevo fatto pure qualche screen, ce l'ho fatto guadagnare 100 milioni di bitcoins. Sì, c'è stato un periodo in cui sono venuto bombardati da bot che io ogni tanto gli scrivevo in napoletano e loro ci provavano, gli scrivevo che ne sei in bulgaro. Vabbè, quasi uguale. No, ma infatti tante volte che entravano sti tizi anche nel gruppo di Letteran Time e ovviamente prendevano i contatti e cominciavano a sparare a bot, cioè nel senso cercando, tu magari rispondevi, dato che quelli sono codificati per riconoscere la lingua, ti parlavano in qualcosa che poteva anche essere intellegibile. Mi pare che ce n'è stata proprio una recentemente che tra l'altro poi alla fine finiva sempre col fatto dei soldi. Comunque io nel nostro gruppo WIP ho linkato un testo che è preso proprio da Federazione Galattica di Luce su Telegram, che esiste ancora, quindi se qualcuno lo vuole leggere, dato che... Però tengono acceso di meno. Non lo so, però questo è importante. Poi io una cosa che non capisco è perché scrivono in maiuscolo. No, vabbè, perché così strillano, no? Perché ho capito, ma questo è tutto in maiuscolo. Cioè. Però ragazzi, quando partono con odiatore di Novax decede per improvviso malore. Esatto, poi già. Decede che vuol dire, scusa, si è morto. È deceduto. Decede, Enrico Dini. Scusa, io decedo un attimo. Odiava i Novax. E Di Maio. E Di Maio. Diogovic, che cazzo è, tennista? Tennista, sì, che è Novax. Sì, non so che c'entra Di Maio, perché lui è Novax, quindi odiava perché per su loro... Di Maio potremmo persino essere d'accordo, infatti dice, vedi, cioè. Tutto sommato Di Maio. Anche i Novax schifano Di Maio a tutto dire. Per lungo tempo la stragrande maggioranza dei suoi post puntava il dito contro i Novax, che definiva ignoranti, coglioni che raccontano cazzate e dai quali richiedeva la coerenza di morire evitando di farsi curare. Ci sta. Non si capacitava di come la Russia avesse prima salvato il popolo ucraino guarendolo dal Covid con il vaccino Sputnik per poi aggredirlo militarmente. Infatti non ce le capacitiamo neanche noi. E continuiamo a non capacitarcene. Era anche informato sulle ultime scoperte scientifiche riportandole alacremente dai suoi social, fra queste quella secondo la quale contrarre il famigerato Covid comportasse una perdita del 2% della massa cerebrale. Ad avercela! Meglio qua. Esatto, quella dipende dalla pasticca. Le certezze granitiche sono un pericolo enorme e noi siamo certi che il vaccino non esista e che anche il Covid esista, siamo certi. Condividiamo ovunque per costruire ovunque. Esatto, e certezza ovviamente. Vabbè ragazzi, stanno troppo avanti, non possiamo competere. Bravo. Con te stesso. No, il problema lo sai qual è, che me lo venivo pure io, però poi dopo vedono il nome, capito? Cioè, no, non, ma io non ci riesco, però sinceramente. Io per fortuna c'ho un account farlocco, beato. Questi la vinciamo noi, fuoco. Spam uguale ban immediato. Vabbè, ma torniamo a Val. Anzi no, Marco, tu che cosa hai portato, Marco? Io sono andato contributo social. A me piace leggere le recensioni. Le recensioni. sono bellissimi. Vabbè, diciamo Marco, professionale. Marco come social utilizza Google Map. Esatto. È un social. È un social anche quello. Vabbè, è un modo suo, è un social pure quello, dai. No, però ci sono le persone che le usano. Cioè, non è tutto ciò che è internet per noi è social network. Ma, no, ma soprattutto perché fa le recensioni è social, cioè tu fai le recensioni perché vuoi dire al prossimo quello che pensi. Poi ricordiamo che noi di questa cosa ne abbiamo parlato anche quando facevamo le puntate dei morti delle bestemmie, dove la gente, se c'è una cosa che vuole fare e tu non gliela fai fare, ti scrive la recensione di merda, no? È proprio tipico, cioè sta cosa. No, ma c'è di peggio. Se vuoi ti leggo. Vai. Allora, possiamo anche dire dove sono state fatte. Sì, che cazzo comunque, ce ne frega. Anche perché io prendo tutti quei ristoranti che hanno delle buone valutazioni, per cui tutto sommato nella massa. Cioè il ristorante De Leoni, che noi conosciamo benissimo, vero Walter? Assolutamente. Proprietario delizioso. Vabbè, se l'hai mangiato, non lo so. Sì, infatti. La pizza era molto bene. La pizza non è più mangiabile. Sugo quasi rancido, impasto gommoso, non facilmente digeribile, molto caro il prezzo. Anni fa la pizza era tra le migliori a Montrotondo. Peccato davvero. Dice vabbè. Però quando il proprietario è delizioso ci passi sopra. Allora, no, sì. Il proprietario delizioso risponde: buongiorno, da 2 anni che abbiamo lo chef e gisto uomo, non facciamo più pizzeria, credo abbia sbagliato locale. Quindi resterà il mistero di capire. Chi cazzo è Gisto Uomo? Chi cazzo è Gisto Uomo e che cosa ha mangiato questo? Poi c'è anche quest'altra recensione bellissima. Sono andato con miei genitori e mio amico, non sua famiglia. È italiano questo, eh? Vabbè. Cioè, lui da 10 anni. Non è studiato però, diciamo. Non è studiato. Prosciutto buono, wifi lo hanno, ho mangiato da bere, da bene. Tutto pulito, via d'oro, eccetera. No, aspetta, questa ci fa una canzone trap. Volendo, sì. Però quello che non ho capito, a parte l'italiano, quello che non ho capito è perché nella recensione è posta la bellezza di 5 foto del suo primo piano. In diversi anni, perché così si vede che è ingrassato nel frattempo, forse mangiando lì si ingrassa. Forse ha frainteso il vuoi postare anche una foto? Sì, eccomi, cioè, non lo so, non si capisce. Se volete va a posto pure, tanto che carta è pubblica, cioè non ce ne frega niente, vediamo se riesco a mandare. Era un po' come quel meme che gira da anni di questo tizio che risponde a un'inserzione per la vendita di una Panda e gli risponde sto tizio, gli dà le caratteristiche di una della macchina, questo risponde: ah grazie, mi può postare una foto? E quello gli manda la sua foto. Anche se gli manda la foto del no. Personale, anche un signor anziano, insomma. Tra l'altro, così tanto per interrompere, che questi della Federazione Galattica di Luce, oltre a essere Novax, che una volta non ne parlavano di sta roba, però è ovvio che fanno, cioè, visto quello, te la ricordi quella su YouTube, no? La matta che parlava con la tagliera dietro, no? Sì, che parlava dei soldati, andate se vi portano nelle montagne. Sono entrate nelle montagne. Che sono anche antisemiti, oltretutto. Cioè, figurati. Ma che te la fa manca? Altra recensione, una stella questa. Mazzarola, questa è proprio una merda. Non eccelso. Questa va seguita. No, quella dopo va seguita. Questa è un po' di meno. A pranzo eravamo solo noi 5. Mio marito ha fortunatamente rimesso. Sta ancora male. Ah. Fortunatamente ha rimesso, però. Eh beh, fortunatamente, se no moriva. Se no moriva. È giusto. Se non stava peggio. Se tossicava. Esatto. Però il proprietario, che non lo prende assolutamente a male: non ricordo il mio ristorante, nonostante la pandemia, con solo 5 persone. Ma a parte questo, non è bello buttare fango e fare facili insinuazioni. Non credo sia affatto corretto per chi come noi dedica la propria vita al lavoro che ama, eccetera, eccetera. Poteva scrivere che il proprietario è delizioso, perlomeno. Che poteva cazzo. Anche scrivere che hanno sbagliato locale. Come con la pizza, insieme, cioè, ci stava, insomma, sta cosa qua. Anche qui un'altra stella. Che dire, ho mangiato malissimo la pizza. No, questa la devo leggere con le punteggiature che ci sono. Come, ok. Come viene letta sopra. Scusate. Che dire, ho mangiato malissimo la pizza alla tirolese, un vero insulto, una pizza bianca che va fatta con sopra alcune fette di speck e poi la ciliegina, una busta di insalata mista buttata sopra senza niente che legasse il tutto. Alla fine ho mangiato un'insalata per di più scondita con pezzi di speck accompagnata da una focaccia di basso livello, sconsigliato. Questo è valente, cioè, neanche il punto prima un di sconsigliare. Cazzo, proprio in zero, proprio, cioè, però qui non ha risposto il proprietario. Forse ha fatto bene. Forse perché è svenuto mentre lo leggeva ad alta voce. Gli è venuto un ictus. Secondo me ha preso la rincorsa, deve ancora arrivare. Qui attenzione, cioè sono 2 stelle invece. Sì, però non ci ha detto quali locali sono. È sempre lo stesso. Ah, è sempre Rione. Okay. Anche qui c'è una brutta recensione. È malissimo. 2 stelle, per un gravissimo motivo. Non viene servita pizza all'esterno, solamente nei posti interni al locale. Peccato, 2 stelle, pezzi di merda, eh? Pezzi di merda, non mi fare bagna fuori, stronzi, 2 stelle. Beh, senti, io conosco una persona che all'epoca d'oro del Kotuki, ristorante cinese abbastanza rinomato della nostra zona, sì, quando ancora era... Diciamo cinese quando era cinese. No, però diciamo che nei tempi in cui ancora non facevano tutto il fusion, con i rollignos, e cose, no? Vabbè, col sushi, insomma. Insomma, ed era... in un momento di ottimo rapporto qualità-prezzo, fece questa recensione, disse: tutto buonissimo, ma do solo 2 stelle perché ha pochi piatti vegani. Vabbè, però ci può stare. Ho capito che vuol dire, cioè tu non mi devi... cioè... no, però comunque posso assicurarti che questa è sei comunque un pezzetto se fai una recensione, esatto, del genere, perché c'è te peggio. E la andiamo a vedere. Ah, questo non è questo. Poi sempre... basta, poi basta. No, torniamo, torniamo aspetta. Cibo medio, vino medio a prezzi gonfiati. Il cliente è portato a credere che sia di classe superiore. Già questo, 2 stelle. Ma da quando è che i Leoni ci dovrebbero avere sta fama del ristorante Gran Gourmet? Fatemi capire. No, cioè... però un po' hanno cambiato. Siccome, sì, che, se siccome ce l'ha che il proprietario non ce l'ha assolutamente in puzza, ha risposto tutto maiuscolo come perché al solito. Delizioso. Perché è delizioso. Sempre maiuscolo risponde. E certo. Ci dispiace che non abbia apprezzato, ma non si può bere il Montiano e pensare di pagarlo come il vino della casa. Che cazzo significa? Non lo so, vabbè, cioè ha questo... preso una bottiglia. Ma poi mi fa specie, so, perché questo si ricorda addirittura la bottiglia di vino che ha preso un cliente qualsiasi, cioè... tanto basta, ci va così poca gente. Esatto. Altre 2 stelle. Tagliolini, gambe, sempre con la punteggiatura, ve la leggo, Tagliolini, gambere e fiori, senza gambere e fiori, ma tanta panna. Una fetta di cocomero di dimensioni ridicole. 2 euro il coperto e più 10% il servizio, è veramente una delusione. Però posso dire una cosa? Cioè io sono stato con Michela e Matteo quando loro hanno cambiato un po', che adesso fanno l'apparecchiamento con le tovagliette. Non so, non ci vado. Una volta volevamo andare a mangiare la pizza, e cioè, allora senta, noi prima portano i menù, dice, no, guarda, noi volevamo la pizza, e noi a giovedì non facciamo la pizza. E ci sono quelli che hanno il pizzettaro solo il fine settimana. Costa, giovedì costa. Che io, no, no, giovedì, non, il giovedì, non il martedì, il mercoledì. Giovedì gnocchi. Poi forse il giorno di riposo del pizzettaro. Giovedì non, io me ne vado. Cioè, nel senso, il cazzo, io sono a mangiare la pizza, devo mangiare l'altra roba e costa un sacco di soldi. Diciamo che non mi ha fatto una buona impressione. Beh, però loro sono passati da un locale anni 70 a 80. Sì, prima era una trattoria di paese. Sì, insomma, comunque, vabbè, dai, comunque non è l'ultima di questa recensione, poi magari l'altra. Poi andiamo a valle. Dopo. Allora, questa qui è stata tradotta dal polacco, però l'ho dovuta leggere perché ci sono c'è un mistero in questa recensione e quindi magari ci date una mano. Eravamo con mia moglie in viaggio nell'agosto 2013 dall'agenzia di viaggio, eccetera, eccetera, non lo diciamo. Abbiamo comprato la cena e per questo prezzo abbiamo preso un pomodoro, una fetta di prosciutto dalla mano e una fetta di formaggio. Solo una strage. No, ma che vuol dire dalla mano, scusa? Dalla mano, è stato tradotto dal polacco e significa forse così. Forse a persona, forse attend. Ma fin qui. Non c'era niente da mangiare, le docce si interrompevano, l'acqua scorreva gialla. Probabilmente era una necessità per la sopravvivenza, non una necessità italiana. Quindi c'è questa cosa dell'acqua gialla che è un po'... Ah, spieghiamo che i Leoni è anche un hotel, perché sennò... Esatto, giusto. Consiglio Hotel dei Leoni, infatti... Il solo a chi piace l'acqua gialla e solo un pomodoro per cena. Io adesso vorrei sapere che cazzo è sta acqua gialla, perché cioè... Vabbè, ci sarà stata un po' di ruggine nei tubi. Non lo so. Oppure ha fatto, sì, ho sentito. Oppure ha sbagliato a chiedere i servizi accessori e è arrivato. Può darsi, può darsi. Vabbè, Walter, vai con altre 2 chicche da Twitter, fammo un giro finale. Vabbè, allora vi faccio incazzare. Dai, faccio incazzare. Allora, vabbè, tanto. Lo sapete chi è Anna Rita Di Giorgio? Assolutamente no. La giornalista. È una giornalista. Vedi che Puccio già ride. È una persona che pur di difendere il suo essere renziana fino al midollo, diciamo così, spesso e volentieri, si attira le ire di tanti personaggi, di tanti utenti su Twitter, ma... In questo caso, adesso vi mando la screenshot, ha veramente, veramente, veramente cagato fuori dalla tazzina, diciamo così, poi infatti leggeremo anche le reazioni, perché in riferimento a una cosa successa a Taranto, scrive questa cosa. Stamattina, altre 3 tonnellate di cozze coltivate abusivamente sono state sequestrate a Taranto, poi si ammalano e danno la colpa a Ilva. Cioè la differenza tra il tumore e l'epatite, mi pare. Esatto. Tant'è che ovviamente subito l'hanno blastata in tanti domandando le cose tipo: ma non ti fai schifo neanche un po'? Oppure qualcuno che dice: beati quei villaggi che hanno uno scemo solo, perché in realtà su Twitter è effettivamente come gente del genere è pieno. Si becca il blast, anche una parola sola è secca: si vergogni, da parte di Fiorella Mannoia, insomma, per dire che pure Fiorella Mannoia hanno scomodato gente di un certo calibro, risponde a queste puttanate. E chi le fa notare che lei è tecnicamente una povera mentecatta che offende chi per colpa della ex Ilva è stato danneggiato seriamente, e confido che venga querelata al più presto dalle famiglie delle vittime tarantine, e così via. Insomma, vi potrei far leggere una quantità di risposte. Il problema è che queste persone, malgrado sembra quasi lo vogliano, per rumori molesti, perché malgrado le figure di merda reiterano, cioè dopo un post del genere una persona normale si va a buttare dal ponte da riccia, no, per queste continuano. Comunque questo... mi interrompo semplicemente per dirvi che USA Galles è finita 1-1. Bene. Ammazza, vabbè, forse la prima partita con un minimo di senso per quanto sia Stati Uniti, vabbè. Vabbè, però gli Stati Uniti oggi hanno un po' raggiunto, se non altro voglio dire rispetto all'Iran, no? Io ho visto solo una foto dell'Iran, perché c'è stato un incidente di mancata precedenza tra il portiere, sì, e un difensore, se gli ha sfondato il naso praticamente. Sì, infatti, ha provato a rigiocare, poi lì è stato assurdo pure l'arbitro, vabbè, cioè nel senso... Cioè lì devi interrompere o ti fa uscire, cioè esce il sangue, cose, vabbè, comunque vabbè. Ma invece una domanda, perché, ma sì, chi era quella squadra che si è scordata le magliette? Stavamo parlando prima, infatti. Ma poi sono arrivate queste magliette? Non lo so, penso. Ma no, magari le hanno ricomprate lì, cioè. Sbagliate questi cazzi. Sbagliate. Magari entrano in campo con le canottiere dello stesso colore. L'importante è che sia dello stesso colore, Ma faccio le scelte un culo. Come si faceva una volta quando tu andavi a giocare a calcetto, dice: vabbè, allora tu voi portate tutte le magliette rosse, se vuoi tutte le magliette bianche, e poi chi era del Liverpool, chi del Grottaferata Vivace, insomma, capito? Quindi però insomma era un modo di fare anche quello. Borgo Rosso, però il Borgo Rosso era bianco nero, il Borgo rosso. Vabbè, bella storia. Vai Puccio. Allora, ritorniamo un attimo sulle domande che avrebbero dovuto essere fatte su Google, ma che invece sono finite misteriosamente su Quora. Come mai nel nostro sistema economico e sociale i ricchi diventano ricchi mentre i poveri diventano poveri? È una questione di merito o esiste un sistema che favorisce i ricchi? Seguono parolacce. Cioè, seguono parolacce sono risposte, le parolacce? Le risposte, no, vai, leggi qualche parolacce. Leggine una o due, dai, così giusto. Che i russi giustiziano 10 prigionieri ucraini per ogni prigioniero russo che viene giustiziato? Fonte così, anonima. Così, è un casaccio. Qualcuno può descrivermi la sua esperienza lavorativa in un centro di smistamento di Amazon? È vero che non vi fanno fare la pipì? Allora... questa cosa ha un fondamento, pare, di verità, perché c'erano una volta i turni per andare in bagno. Però devo dire, questa domanda, per quanto suoni ridicola, si è meritata una risposta seria di un ragazzo che sta nella logistica di Amazon, tra l'altro neanche come dipendente ma come, diciamo così, stagionale, che insomma ha spiegato un po' meglio quello che succede nei magazzini di Amazon. Poi ve la linko perché mo' è lunga, però diciamo va, merita di essere letta, secondo me. Un'altra domanda che sta calamitando l'attenzione è: mi spiegate la differenza che esiste tra Putin e Stalin? Seguono spiegazioni sui gulag, i campi di concentramento, eccetera, eccetera. Scusa, la differenza è Putin e Stalin. No, sì. Io devo dire una cosa, cioè Stalin, che è stato un terribilissimo dittatore, se non altro li mandava in Siberia, cioè li faceva campare in qualche modo, invece Putin va direttamente al sodo. Ma l'avete letta la notizia l'altro giorno di quel morto, una persona insomma morta in circostanze misteriose con 5 colpi di pistola? Esatto. Sì, si parla di un suicidio. Esatto, le autorità parlano di suicidio. Si parla di suicidio, perché poi sparasse 5 colpi. Stava sul cazzo. Pensa quanto si odiava, infatti. Vabbè, a meno che lui... il piombo o al marciapiede, perché spesso sei marciapiedi che ma lui potrebbe aver fatto, però scusa, come ha fatto Walter White, no? Cioè che aveva costruito quel tagliatore automatico. Esatto, quindi lui poi si è messo davanti e ha preso si è suicidato. Cioè, come vuoi contestare una cosa del genere, scusa? Bene. Comunque c'è una domanda che tra l'altro me l'ho salvato e che era finita in fondo perché ero in dubbio, però in effetti rileggendola mi rendo conto che c'è un sacco di senso. Sapreste descrivermi un discorso ipotetico tra Einstein e Isaac Newton se volessero parlare di gravità? Boh, spiegatemi. Beh, diciamo esattamente che... quale percorso mentale può averti portato. Sai cosa? Ti rispondo io. Una puntata di Star Trek Next Generation sul ponte ologrammi. Bravo, hai ragione. Quindi, alla fine anche se poi voglio dire, cioè, nel senso stavamo parlando di due livelli di cognizione e conoscenza totalmente diversi, però vabbè. Comunque c'è un altro trend su Quora che a me sta colpendo tantissimo, che vi fa capire come ha ragione Walter: le persone in Italia sono tendenzialmente pigre anche nel fare le cose più banali. Vi faccio un esempio: potreste aiutarmi a scrivere un messaggio di cordoglio per mia nonna? No, dai, no, ma secondo me la gente c'ha bisogno di attenzione, dai, non sì, alcuni di droga, sì, secondo sì, me. Sì. E un'altra cosa che è la FOMO, la FOMO, come si chiama la FOMO? Ah, non ci azzecca un cazzo, però che beh, te frega, tu metti nel mucchio, insomma, no? Te frega, posso mettere il mucchio. Un'altra catena di domande, ve ne faccio solo un esempio, ma vi assicuro che ce n'è una per ogni libro. È tipo: potreste descrivermi i passaggi salienti e il significato riassumendomelo del Piccolo Principe? Cioè, mi fai il tema, per favore? Mi fai il riassunto? Beh, certo. Cioè, questo è il riassunto del Piccolo Principe, beh, davvero due righe in croce. No, sì, però vedi, tu guarda la bellezza di questa domanda, cioè questo deve fare questo compito a scuola, esatto, e lui te l'ha trasformata come: mi sapreste dare un... cioè, capito? Cioè, perché se dice: senti, io non me che mi fai riassunto, esatto, non è che ti ha chiesto mi fai riassunto del Piccolo Principe, ma no, lui te l'ha imbastita, esatto, capito? Pare culo, un figlio di un politico. Aspettate, oppure deve fare un colloquio del lavoro, perché vi giuro, una volta mi fecero un colloquio, mi fecero delle domande sul Piccolo Principe, cioè un colloquio, praticamente un suo studio legale che gli serviva, una c'era inserzione che gli servivano, che si occupava di neuropsicologia, quindi era là andato a preparare sui test cognitivi, queste cose qua, e inizia a chiedermi tutt'altro, praticamente delle robe. A un certo punto inizia a chiedermi: ma lei qual è il, se devi dire qual è il suo personaggio preferito del Piccolo Principe? Il Piccolo Principe, sì, beh, letto, ma l'ho letto 20 anni fa, non mi ricordavo più un cazzo, nonostante sia famoso e tutto, quindi sai che io ho scoperto che c'ha dei, cioè nel senso c'è proprio una fetta di persone che proprio adora, impazzisce per il Piccolo Principe, cosa che carino, cioè è una metafora importante, formativa, sì, però, cioè, se lo hai letto nell'età giusta, gente malata di mente, però sì, sì, è bellissimo, cioè. Io preferisco la versione per adulti, cioè che la guida galattica per autostoppisti, però alla fine sì. No, io l'ho sempre definito così, per me la guida galattica è la versione per adulti del Piccolo Principe, ma vai da una parte all'altra, ogni sai cosa che non ci avevo mai pensato. Sai qual è una cosa divertente del Piccolo Principe? Che non so bene perché in Italia lo si trova, passatemi il termine, tradotto in una quantità sterminata di dialetti locali. Sì, l'ho trovato in dialetto di Rieti, l'ho trovato in dialetto di Napoli. Come hai saputo? Sì, la mia ex ce n'aveva due o tre diversi. Nel dialetto di Napoli c'era pure Windows. Vabbè, però c'era pure a Rieti, c'era com'era Luprincipe Picciriddu, una cosa del genere. Ed era in dialetto rietino. Bello, reatino. Bello, bello. Non vedo l'ora di non leggerlo. Vabbè, che libro è quello? Sì, infatti, però insomma. La cosa bastarda disse: mi racconto, qual è uno dei suoi personaggi in cui si vede di più, tranne la volpe, il principe? Certo, perché se no ti puoi arrampicare sugli specchi. Oh, cazzo. Il principe. La pecora. Può fare un cazzo di colloquio di lavoro. Cioè, a parte domande che invertono tutt'altro su quello che era la cosa, e poi mi fai domande sul Piccolo Principe. Ma perché? Perché ci fosse un test standardizzato sul Piccolo Principe? Non lo so. Poi all'epoca mi è preso talmente diciamo dei contropiedi, che non è che gli ho avuto, diciamo, il raziocinio, diciamo, di dire: ma che cazzo mi stai dicendo? Ci ho cercato di imbastire, mi ricordo che cazzo, scusi, ma che cazzo sta dicendo? Bello, mi piace questo. Comunque vorrei segnalarvi anche, secondo me tu avresti potuto tradurre il Piccolo Principe in Salernitano. Secondo te ne esiste? Sì, esisterà, se dite così. Io non l'ho mai visti, però mi fido assolutamente. Lo cerco subito su Amazon. No, su Quora. Su Quora. vi vorrei dare anche un'altra domanda che vi dà il peso della situazione drammatica che stiamo vivendo. Potreste spiegarmi passo passo, con esempi e preferibilmente anche con foto, come installare una caldaia di marca Vortec? Allora, o è uno che sta cercando di non ha i soldi per pagare l'idraulico? Sì, no, non è, allora tu, io ho capito. La prima esplosione è lui. Io ho capito una cosa, cioè c'è una serie di una categoria di persone che sono sempre esistite, non è che mo esistono perché c'è internet, che però in internet hanno trovato, cioè sono quelli che non vogliono paga le persone. Aspetta, che... aspetta, fammi finire. Cioè, sono quelli che vanno a fare per cazzi loro, capito? Cosa hanno fatto loro? Perché le cose erano, o è uno che sta cercando di installarsi una caldaia da solo senza pagare l'idraulico, o ha un idraulico. Sì. Che qua cazzo si è molto così. Che è più grave, sì, però potrebbe succedere. No, oppure è quello che deve installarla e non sa come esatto, fare. Esatto, l'idraulico. Grande, certo. Può essere anche questa come ipotesi. Sì, chi può dirlo? Sì, sì, beh, comunque, mi ero segnato anche un altro capolavoro che veramente vi fa capire come non chiamano manco i medici, non solo gli idraulici. Qualcuno può spiegarmi quanto tempo ci impiega a fare effetto lo Xanax? Non so perché c'è un... Francesco. Dipende dalla posologia, sì. Dipende dal peso, dipende da un sacco di cazzi, anche se dipende non se lo vuoi farlo sapere. Dormire o ucciderlo anche. Dipende pure dall'effetto voluto, che è quella cosa importante, esatto. E infatti, quanti mostri vuoi vedere stasera? Di che tipo? Aspetta la posologia. Di che tipo, di che colore anche. Ragazzi, a proposito di mostri, io stavo pensando di dedicare una rubrica all'ex senatore Simone Pillon, perché ormai che è stato trombato? Sì. Non è, sì, non è stato. Mannaggia, mannaggia. Ora, siccome non c'è un cazzo da fare, lui fa due cose nella vita. Intanto ha soldato. Dice strozzate, ha soldato un tale per querelare tutti quelli che l'hanno offeso su Twitter. Ma tutti, ha detto tutti. Quindi questo lavora fino alla pensione. Esatto. E poi, in più, ogni tanto, per quello si potrebbe fare una rubrica fissa, posta delle immagini di oggetti d'arte, di quadri, di altri di reperti antichi, eccetera, commentandoli con la sua interpretazione di quello che ha appena visto. È stato uno dei primi casi, e poi si è preso la prima blastata, ma poi ha proseguito oltre. Posta questa immagine di questo rilievo egizio che raffigura Akhenaton con Nefertiti e tre delle loro figlie, e commenta così la tavoletta. Dice: buona domenica amici, guardate i raggi di sole che illuminano il padre, la madre e le loro bambine. Entrambi gli sposi sono seduti in trono, uno di fronte all'altro, con pari dignità. Già nell'antico Egitto avevano compreso che la famiglia è una società naturale benedetta da Dio. Pillon, erano politeisti Pillon, e questo veramente è proprio, cioè, è l'inizio, perché poi da lì è derivata, proprio c'è stata una deriva. Io ho una spiegazione, cioè, secondo me lui, dato che ha assunto questo tizio che vuole querelare tutti quelli che lo hanno, lui dice che lo hanno insultato, che lo insulterà, lui, no? Lui, esatto, lui adesso sta facendo tutta una serie di post per essere ulteriormente insultato. Sì, vabbè, cioè, può anche darsi, cioè, è una strategia economica, capisci? Di campare in qualche modo, ragazzi. Vabbè, poi un investimento. È l'investimento nel futuro. Quello. Prossima settimana vi racconterò il commento di Monet e Manet, del quadro di Monet, che quello rappresenta la famiglia di Manet, e Pillon gli dà la sua interpretazione. Quindi faremo un jingle apposita per questo. Per Pillon, questa cosa, sì, sì. Vai, Francesco. Dice Peppe Rizzard, che nel frattempo salutiamo, in riferimento al commento di Pillon, dice: qualcuno gli spieghi che spesso trombavano tra parenti. Sì, vabbè, ma insomma. E con sanguigno. Esatto. Spesso. Esatto. Togli spesso. Quindi così. Vai, Francesco, chiudi. Mi è venuto in mente adesso, solo purtroppo non sono riuscito a trovarlo. Comunque, una volta mi era presa la scimmia praticamente su Amazon, tipo c'erano delle recensioni non divertenti di più, soprattutto legata a degli articoli particolarmente costosi. Io purtroppo non vado a memoria, e mi ricordo che c'era tipo un proiettore che costava sui 20.000 euro quasi. Hanno disse recensione bellissimo, l'ho comprato circa 50 anni fa e da allora ci proietto il Molise, una cosa. Poi non ricordo, tipo, per quanto riguarda anche delle penne ultra costose, la roba inutile, purtroppo, mannaggia, non le riesco a trovare. Forse l'hanno eliminato, non esistono più quegli articoli, ma c'era del genio. Niente. Però se volete possiamo ritornare ai nostri amici. Possiamo vedere possiamo fare anche qua una rubrica settimanale, che poi da un po' che manca, però una volta a settimana, se non mi infilavo in un gruppo, era un bot che mi veniva direttamente a bussare alla porta e io cercavo di farlo, di farlo impazzire per quanto possibile. E mo che ne trovo uno, cioè devo andare molto indietro nella cronologia perché mi butto. Ah, ok, faccio gli screenshot, così potete, qua risale a giugno praticamente. E un attimo, i tempi tecnici di incollare la cosa, sta arrivando. Comprime immagini, si comprime. Allora parte questo con ciao, io hola, e subito si rassomma, è un piacere conoscerti qui. Io rispondo in tedesco, danke schön. E poi mi rispondi in tedesco, Heilis willkommen, mein Name ist Amelia, wie heißt du? Cioè, io mi chiamo quel tuo nome. E io le rispondo, tipo, non mi ricordo se era polacco, che roba era, comunque. E comunque sai di qua di nuovo, a un certo punto mi rispondi in cirillico, non ci capisco un cazzo. Non, io le rispondo in cirillico e non mi risponde più dal cirillico, secondo me l'ho offesa in qualche maniera. No, perché il cirillico è la loro lingua, quindi non truffano loro stessi, quindi... È vero, è un'ottima interpretazione. Poi ce n'era un'altra, pure abbiamo, cioè per giorni proprio abbiamo sì praticamente questa, hello, ma io poi vado a vedere e mi ricordo che c'era tipo una foto di una vecchia e poi ha messo una foto di una giovane qua, ma io gli ho scritto, ma io c'era una foto di una vecchia. Il giorno dopo, ciao, poi inizia a scrivere keyword detective, please input credentials error f, mi risponde con punto interrogativo, io da e le scrivo dai casino bot. Il giorno dopo, nu intelleg, una cosa del genere, e io dico no internet mi prende. Poi tutto bene, come voce stai? E poi mi sono cagato cazzo. Però è... Guarda, ti do uno spunto sul whip di OGM, poi andiamo a Marco e poi chiudiamo, dai. Cioè? Se lo sta andando a preparare, allora io approfitto perché vai. Non me la posso tenere per la prossima settimana. Ho deciso che vi dovete backup il LON. Ah, ho visto. Che ha postato questa immagine che vi sto caricando nel frattempo di aspettate perché sennò mi perdo il, com'è ci sto mettendo così tanto? Ok, il dice: oggi vi propongo questa splendida opera del pittore impressionista Manet, la moglie perché che raffigura Monet e la famiglia di Monet. Dice: la moglie di Monet occupa il centro della scena, il figlio Jean se ne sta beato accanto alla madre, e poi c'è papà Claude ritratto a sistemare l'area del picnic. Un'opera davvero stupenda, la famiglia. Risposta, cioè, che alla ha confuso conica. Monet e Manet, cioè, non li ha confusi, è che il dipinto effettivamente ritratto da Manet ritrae la famiglia di Monet, questo è corretto, però giustamente persone con le dovute qualifiche gli fanno notare, ancora una volta parli senza sapere, Manet mise incinta una ragazza che partorì un figlio che lui non riconobbe, solo molti anni dopo la sposò, era comunque un libertino e morì per molti eventi collegati alla sifilide, non era credente e cacciò l'arcivescovo dal letto di morte, così per dire che lui interpreta, vede la famiglia dove, insomma, la famiglia tradizionale dove non c'è. Ma sta documentare prima, allora non avete capito, non avete capito che è l'investimento, è il futuro, l'investitore sta basando l'economia della sua esistenza su questa cosa, sulle querele. Io come ho detto, è vero, però parlando di Cristo Francesco, giustamente Ari Cristo, la verità, 18 ottobre 2022, scarsa efficacia e troppe controindicazioni, la società di medicina ritirare i vaccini dal mercato. Ma poi dove leggono queste notizie? La verità. Ah, giusto. È l'idea. Società Italiana di Medicina sul proprio sito web invita i sanitari a compilare un documento per il ritiro dei vaccini Covid a inviarlo a diversi enti istituzionali, tra cui l'AIFA, il Ministero della Salute, la Corte Costituzionale e la Procura di Roma. La SIM è una rete di associazioni sanitarie che si propone di creare un luogo di confronto libero e sereno adatto allo scambio di conoscenze medico-scientifiche nel solco di un dialogo rispettoso tra diverse esperienze del campo della medicina. All'interno del documento vengono richieste esplicitamente la sospensione del like, autorizzazione, ma boh, non mi fa ridere sta cosa, perché mi ha messo a fa ridere? No, pensavo. Ah, Ah, tu mi hai fatto vedere il canale per iniziare. Eh sì, io devo lo far vedere il canale. Dai, ho capito, che cazzo. No, i però... passataranno delle mascherine. Gli studi sono più accreditati e non dimostrano che sia davvero efficaci contro i contagi le mascherine. Cioè, questo è un gruppo intitolato Gesù Cristo, capito? Cioè, nel senso, se tu fai un gruppo che è intitolato Gesù Cristo, infatti l'ultimo post preghiamo per tutti quelli che bla bla bla. Ma secondo me mi ha dato un altro ho dato un altro spunto, vedi, è questo che era la mia intenzione. No, mi ha dato un altro, cioè, nel senso, mi ha dato proprio un altro gruppo. Ah, un altro non gruppo. Si chiama Gesù Cristo, si chiama Studi Scientifici. Sì, infatti questo si chiama proprio Studi Scientifici. Allora questo qua era ripostato all'interno del gruppo intitolato Gesù Cristo. Gesù Cristo regna, una cosa del genere, insomma. Gesù Cristo fregna. No, perché c'è chi rappresenta Dio come donna? Gesù Cristo figlio di Dio, eccolo, ce l'ho. Gesù Cristo. Vabbè, Gualdi, vai, cerca. Allora, gli ultimi spunti e poi ce ne andiamo. Che volete? Dai. Volete i titoli allarmanti che mi passa Google, oppure le recensioni del Bar La Fonte? Dai. Le recensioni negative del Bar La Fonte. Una stella, scritto tutto in maiuscolo perché la forma è importante, e con le giuste punteggiature. Il locale è carino, ma trovo troppo esagerato il prezzo delle consumazioni al tavolo. Esempio: cappuccino di soia al banco 1,30 al tavolo, 2,60, faccine triste e ghiacciate. Cioè, bellissima, perché c'è bisogno di farle bene le recensioni. Una stella, posizione scomoda per un locale poco stimolante e anonimo. E qui ti viene la domanda, cioè il problema è che è una posizione scomoda per quel tipo di locale, che è appunto poco stimolante e scomodo, o è scomodo perché c'è la posizione, non si capisce, però gli ha dato una stella. Due stelle, chiuso per lavori. Pezzo di merda, hai chiuso, io ti metto due stelle, merda, è perché è così che funziona, mi sembra, quando fai le recensioni. Una stella, mai entrato in questo nuovo bar. E quindi non si sono mai entrato una stella, merda, sono libero di mettere la stella. Una stella, non sono rimasto contento, disorganizzato, lo sconsiglio, vabbè. Un'altra stella, attenzione, questa è, scusate, è importante perché un po' di musica ci vuole a un certo punto. Che è successo? No, Gesù. Mi viene in mente, grazie Christian Aert, era un cartone animato degli anni 80, no? Però se uno cambia il nome anziché Titan, Gesù, che è uguale, Gesù è vero, invece Titan era un cartone animato ed era un personaggio che era un robot. Mi viene in mente Gesù, per lui tu sei davvero grande. Con questa musica direi leggiamo quest'altra recensione. Scusate, ma per capire, ma come fa inchiodato alla croce a lanciare l'attacco solare che prevede che incroci le mani davanti? Lui non lancia l'attacco, lui è Gesù, è buono. Esatto, non lancia l'attacco, lui lancia l'attacco di lui pace. Sta zitto, fermo lì e muore. Cioè, si sacrifica. Esatto, Gesù, la sua mossa finale, il colpo di grazia, è lui che muore. Esatto. Che momento. Prende i nemici per commozione, li fa. Esatto, per disperazione. Siamo a un mese da Natale. Esatto. Quindi abbiamo spoilerato. Sì, esatto. No, abbiamo spoilerato Pasqua. Capito, abbiamo spoilerato per ancora nasce, già abbiamo detto qua finisce. Vabbè. Comunque questa è una battuta di Boris 4. Ma anche più vecchi. Questo è spoiler. Una stella, attenzione. Dopo aver chiesto due spritz, la ragazza gentilmente ci chiede se abbiamo 18 anni per servirci al alcolici. Veramente apprezzato di averci ringiovanito 8 anni. Una stella, merda, ci ha dato dei minorenni. Merda. Sembra giusto, cioè. Lo so, ragazzi. Vabbè. Comunque c'è attenzione, da dire che c'è l'ultima recensione. continua a essere chiuso. Una stella. No, infatti quello volevo dire. È lo stesso dell'altra no, volta. No, è un altro. Questo è un altro che c'è anche no, chiuso. Perché cos'è successo? Avevano acquisito sì. una nuova società, aveva acquisito il locale, l'aveva completamente ristrutturato, l'avevano riaperto. Dopo pochi mesi l'hanno richiuso, dopo aver speso un sacco di soldi. Attenzione, attenzione, c'è un'altra recensione. Era chiuso, una stella. Vabbè, cioè, quindi così. Così, cioè, sai se tu vai in un locale, lo trovi chiuso. Ma tu l'hai mai fatta una cosa del genere? No, perché dove ne faccio? Cioè, trovo chiuso, me ne vado. Cioè, è chiusa la stella. Beh, no, dipende. No, se io ho fatto. Sto andando a dare una recensione a una stella, a un bar che ha appena chiuso a Putignano. E il giorno prima che chiudesse mi avevano fatto ricaricare la tessera fedeltà di 12 euro, quindi mi hanno inculato. Beh, lì sicuri. Scusa, a che serve la tessera fedeltà in un bar? A prenderla nel culo. Invece aspetta, pure sto facendo una recensione a una stella, però questo è un bed and breakfast nelle Marche, si chiama La Casa nel Bosco, e gli scrivo: non ho trovato il priore, una stella. È vero. No, ma in realtà noi ce l'hanno fatta la recensione. Ma il priore ha trovato te, solo che non te ne sei accorto. Esatto, noi ce l'hanno fatta la recensione a una stella perché questi erano, cioè, senza vaccino, senza Green Pass, senza niente, e pretendevano. Sì, mi ricordi quei vecchi là che andavano in Cina, Vabbè, comunque. Vabbè, raga, io vorrei andare a casa. Allora, carissimi amici, con questa musichetta che la ricorda molto, ma non è, eppure la ricorda molto. Anzi, è solo un plagio, allora. Esatto, bravo, esatto. È fondamentalmente un plagio. È la musica che ci accompagna verso l'uscita, verso, prego, quella è la porta. Ha cominciato ad andarvene un po' tutti quanti a fanculo. Io ringrazio e saluto chiaramente Marco Gualdi, anche detto il distruggitore. Vi saluto, e se riuscite a capire che cazzo è questa acqua gialla, il mistero dell'acqua gialla del ristorante Leoni, dell'albergo Leoni, fatecelo sapere. Sarebbe chiedere a un polacco se acqua gialla secondo loro c'ha un significato nello specifico, insomma. Ringrazio e saluto ovviamente Walter Sbano, che troverete martedì sera, giovedì sera alle ore 20 con le orazioni della sera, sempre su runtimeradio.it. Ciao! Bella per te, e tornerà con la sua rubrica Jeep, capito? Perché insomma, poi mettiamoci pure Mastodon, che non sai, io non ho capito un cazzo come ma che mastica, ma non succede esattamente niente su Mastodon. Mastica è il clone vuoto di YouTube, di Twitter. E salutiamo e ringraziamo anche Carmine Puccio Console. Buonasera, vado a fare domande cretine anch'io. Bravo, bravo. Adesso dobbiamo contribuire anche noi un pochino, perché sennò c'è divertimento. Anzi, voglio fare una domanda intima, imbarazzante, per vedere se c'è qualcuno che mi risponde. No, quanto ne vuoi? Quindi poi ne parleremo la prossima settimana. Certo, la sessione sesso prossima settimana. Esatto, che è la più bella comunque, ragazzi. Come sempre, perché è un po' come cioè. Cuora ha sostituito da quel punto di vista, cioè, no?